superbezza, cieca con tutti e sorda, tranne con un che tu, signor, disgrada. Bara, bara, già la cura dell'euto era cor, arrimato si spezza. Son la biscia fredda e aliscia che sfiscia. Or ben si morda.